24 mattino. E allora mancava solo il calcio, una giornata importante anche dal punto di vista statistico. Come sapete è un fenomeno quello delle squadre a punteggio pieno, c'è però in primo piano la caduta del Milan, e allora nell'evocare lo spirito luminoso del grande Pier Pardo, leggo quello che scrive ai concerti menando sganassoni sulla squadra rossonera nel suo fondo sul Corriere della Sera. Colpa di Montella? In generale no, nel particolare certamente. Quando una società denuncia, come ha fatto ieri, una complessiva mancanza di impegno, ma denuncia una mancanza di controllo da parte del suo dirigente allenatore, che lo voglia o no, siamo all'anticamera della crisi, tocca al Milan evitarla. Buongiorno Pier. Come va? Come va? Innanzitutto complimenti, siete eroici, già svegli tutte le mattine, veramente. Per niente. Ma è incredibile è questo derby delle milanesi fra il culo e la iella, no? Non trovi? Beh sì, il culo ha messo il culo di stare in calcio, no, perché non è ancora stato stabilito scientificamente se esista o no il culo. Allora te lo chiedo, un po' di fortuna l'ha avuta Spalletti? No, ma l'Inter vince, ha vinto delle partite in queste prime giornate fra l'87esimo e il 94esimo. Diciamo, tra i 18 punti di Napoli e Juve e i 16 punti dell'Inter c'è una differenza di forma abbastanza evidente, però intanto le ha vinte. Ma assolutamente ci sono, sì. No, ma poi ci sono degli elementi, cioè per il portiere che anche ieri è stato decisivo, comunque fa parte della squadra. Diciamo che in prospettiva la sensazione è che l'Inter sia un po' dietro alle altre due, però è anche vero che non ha le coppe, poi sai, il calcio tutto cambia di settimana in settimana, l'importante è andare avanti. E che cosa pensi di queste parole di fuoco, di sconcerti sul Milan? Qual è il motivo della crisi del Milan? Questo è indubitabile. L'allenatore è sempre comunque la sintesi tecnica, quindi è sempre in qualche modo quello che paga o che si becca gli applausi se le cose vanno bene. Per cui sicuramente Montella è inevitabilmente imputato in questo momento, perché una squadra che spende così tanto, che fa il mercato, che fa mezzo tiro in porta come ieri a Genova, è una squadra che ha problemi. Poi ovviamente la strada è molto lunga. Qual è il problema principale? La foto di tutti i giornali è Bonucci sotto accusa, ci si chiede se Biglia fosse il regista giusto oppure no. Qual è secondo te la causa? È la famosa amalgama, ti ricordi quella storia lì del... Sì, l'amalgama mal riuscita del Catania, no? E compriamola questa amalgama, l'amalgama non c'è, ecco, in questo momento non c'è e non si può neanche comprare sul mercato. Il Milan ha fatto tanto mercato, c'è stata forse anche un po' di sopravvalutazione mediatica, nel senso che poi alla fine giocano in 11 e ha comprato tanti giocatori, ma forse in una maniera un pochino più confusa rispetto ad altre squadre. L'Inter ha fatto molto meno mercato, però con delle idee un pochino più precise. Poi magari l'Inter è corta, se dovesse avere degli infortuni secondo me avrebbe dei problemi, il Milan no, il Milan è una rosa sicuramente più profonda, però ha ancora tanti casini, cioè tante cose da sistemare, si cambia modulo da una partita all'altra. Ed è vero che nelle uniche due trasferte pesanti, difficili della stagione, quella con l'Alzio e quella con la Samp, il Milan ha perso. Ma non solo e adesso male proprio, arriva la Roma, caro Pier, che ha messo il record 2.40 punti di media partita. Di Francesco. Una grande partita che ci dirà molto, secondo me, perché la Roma alla fine ha sbagliato mezz'ora in questo campionato, che è la mezz'ora finale contro l'Inter, forse addirittura 20 minuti più che mezz'ora. Però come ben sai, Di Francesco è stato accolto con grande scetticismo, sembrava che fosse finito tutto, il fatto che la Roma abbia dovuto vendere giocatori importanti sembrava fosse veramente l'inizio della fine. In realtà probabilmente non è così, cioè se guardiamo la rosa della Roma, secondo me rimane una rosa impressionante, rimane la terza del campionato dopo Juve e Napoli, quindi ci andrei molto cauto. Resta con noi solo un secondo, perché manca solo da discutere il derby, ma dobbiamo evocarlo con quel gol che fa soffrire il nostro Oscar, che come sapete ha il cuore granata, il gattone Paolo Dybala col tocco sotto, 4-0 e sono 10. Dov'è il gattone? Fate il miagolio, Oscar, eccoci. Hai sofferto ieri oppure? Beh, come sa il nostro Pierpa, sapevo qual era il risultato. Lui mi spotteva prima dicendo: ah no, vincerete, pareggerete. No, ma io lo facevo solo perché volevo invitare Giannino. L'invito è sempre valido, volevo invitarlo stasera a Tiki Taka. E allora, siccome non so più a che santo votarmi, ma no, ma gli ho detto: dai, se vincete il derby, anzi, se fate il risultato al derby, hai ospiti di ben altra, no, di ben altra caratura. Però, insomma, i valori in campo sono i valori in campo. Insomma, Sinisa forse l'ha presa un po' larga in campo, e quindi siamo stati bastonati. Perché io inizio. No, vi è piaciuta questa così, suggestione della lotta di classe, no, padroni contro popolo, no, perché partita, è fuori tempo e ha contribuito alla debacle in campo, se posso dire una roba, fa un po' ridere che io mi metta a parlare di tecnica, però la mia squadra la seguo più delle altre, così via. In campo, se voleva fare il proletario doveva stare molto più coperto, e invece ha voluto fare quello iscritto al club dove i proletari non sono iscritti, e le ha prese, perché a quel club lì e quella maniera in campo gli altri sono, ti ficcano, ecco. Oh, però il Torino lucidissima, pronto per Tiki Taka, so che riceverò centinaia di insulti, ma il Torino non riesce a fare un derby 11 contro 11, le espulsioni, i cartellini, ma no, sai che io non sono, io al calcio non mi appello mai alla decisione. Il problema non è l'entrata da karateka che è costata l'espulsione a Baselli, il problema è che agli altri i cartellini non arrivano. Vabbè, ma lasciamo, no, ma tu, guarda, ci vuole essere un cartellino per Chiellini sicuramente, ottima, credo sul 3-0 già. La verità è che lì Baselli, che poi chiede sì, ha chiesto scusa, fa una, capito, cosa che non ha proprio senso. Esatto, non ha proprio senso, si dimostra uno dai nervi per... fragili, che nei derby non bisogna averli mai, come non bisogna averli mai. Scusate, mai. Ma Serena giustamente ci richiama all'ordine, ecco. Ma perché non dite che il Milan ha incontrato una bella Samp? Eh sì, la Samp sta facendo del nostro amico Viperetta, sta facendo cose fantastiche, ha venduto il giocatore più importante ed è ancora forte. Come lo spieghi, Pier? Più la forte. La Samp ha fatto delle cose di grande livello, ha venduto tantissimo, perché ha venduto veramente giocatori importanti come Muriel, ovviamente Schick, e poi lo stesso Bruno Fernandes, che magari è un po' meno mediatico, però è un buon giocatore. E, no, ma c'è questa capacità di, sai, la capacità di autorigenerarsi, di rigenerare un certo tipo di qualità tecnica. Eccolo il proletario sottovalutato, Giampaolo. Sì, Giampaolo, ma voglio dirti anche il Chievo, banalmente, no? Per farti un altro esempio, un'altra storia che no, ieri, no, dai, no, non devi citare il Chievo, criminale. Comunque la Sampdoria è a più 5 rispetto all'anno scorso. Pier, ti salutiamo, non parlare del Chievo, non parlare. Vabbè, da 10 anni il Chievo è quel Chievo. Ma certo, deve parlare, è così. Viva il Crotone, viva il Crotone. Grazie a Pierre, i cani gatti iniziano a discutere di cose molto complesse. Ci eravamo tenuti per proprio un duello rusticano. Il grande argomento del fine settimana: a Londra, nella liberale Inghilterra, il sindaco Khan mette fuori legge Uber e riconosce, cosa che forse bisognerebbe fare nel resto d'Europa, che i tassisti svolgono un servizio pubblico. Che non è che riconosce che i tassisti svolgono un servizio pubblico, sei falso già nelle premesse. Questo non lo disconosce nessuno. Non lo disconosce nessuno. Chi disconosce che i tassisti svolgono un servizio pubblico? Perché l'hai detta così? Perché la metti male fin dall'inizio. Infatti la metto male fin dall'inizio, sì. Sì. Allora, no, ma non trovi che ci sia... Questa comunque è un grande dibattito che, certo, attraversa. No, io ti segnalo questo tema. Tu, Uber, non ha vincoli. Questo è il problema che mi attanaglia. Non ha vincoli di tariffa e non ha vincoli di servizio. Non, certo, deve andare in periferia, infatti, e non ti fa pagare lo stesso prezzo tutti hai i giorni. Appena. Allora, paghino lo stesso prezzo, no, diano la stessa tariffa. Hai appena finito di dire che giorni. Uber, per tutte le caratteristiche che hai detto tu, infatti non è un'offerta con le stesse caratteristiche dei taxi. Ma allora non può fare, quindi viene meno l'argomento di chi dice siete dei concorrenti dei taxi e non vi adeguate alle stesse regole, perché non è una tariffa amministrata, ma è una tariffa libera scelta da chi consapevolmente vuole questo servizio diverso, con tariffe che variano anche per tempo di picco. Quindi intanto ha una tariffa diversa. B, è diversa la modalità dell'offerta e l'organizzazione del lavoro, e gli autisti lo sanno perfettamente. 3, è diversa la modalità con cui si incrocia la domanda e l'offerta in tempo reale, dove il cliente non va col taxi assegnato se arriva il radiotaxi, ma vede un'offerta libera sul proprio iPhone. Infatti è un'offerta diversa che va regolata io non dico di no, ma non ha le stesse caratteristiche dei taxi. Quando capiremo che la sharing economy è un'altra cosa aggiuntiva come traffico e non guarderemo solo le cose con lo specchietto retrovisore, sarà meglio. Peraltro, ma lasciami dire che i tassisti italiani, come al solito, e finisco dopo aver spiegato che sono due offerte, hanno ragione, perché per l'ennesima volta la politica li ha presi per i fondelli. Era febbraio di un anno fa, quando il governo disse, anzi era febbraio di quest'anno, quando disse che in un mese emanava la regolamentazione che manca da anni e anni sulla annosa legge degli anni 90. La legge dei garage. Non abbiamo esatto, abbiamo il tempo per approfondire. Tu l'hai vista? Ecco, la politica è così, incontra di volta in volta gli interessi, dice non vi preoccupate, adesso mettiamo tutto a posto. Poi pur di non scegliere in Italia, da un colpo al cerchio non la botte. Cosa significa questo? Che dalla parte i tassisti hanno ragione a incazzarsi dicendo ma perché ci avete promesso un intervento e poi non lo fate? Dall'altra parte ci inventiamo magari le tasse sui servizi in sharing economy, ma noi in Italia una visione organica, magari vincono quelli come te che non vogliono la sharing economy nuova. No. Ma io vorrei semplicemente che in Italia si facesse una scelta. Mentre invece, cioè ci sono 650 città nel mondo dove c'è Uber. La sharing economy, e chiudo su questo, ma penso che se un tassista si deve svegliare con i turni all'alba, deve usare una tariffa imposta, deve coprire tutte le zone, ha diritto, perché non svolge un servizio qualunque, ma un servizio pubblico regolamentato, ad essere tutelato rispetto a quello che arriva e gli frega la panna dal latte. Ma non gli frega la panna dal latte, di perché servizio ripeto, pubblico. Sono diversi perché i tipi di offerta. Le corse migliori sono diverse, non c'è la tariffa amministrata per quello. Allora, c'è qualcuno che ci dice, ma non parlate della Germania, ne ho parlato per un'ora adesso, ma proprio ora voglio sentire il parere di Oscar, perché ho letto, ho citato il tuo fondo sul Messaggero di oggi. Una lezione amara, scrivi, sui nazionalisti. Sì, perché noi abbiamo, innanzitutto io penso che l'informazione, io ho provato nella trasmissione che ho dedicato alla Germania, abbia completamente toppato in Italia e in Europa. Noi abbiamo raccontato per mesi di un voto noioso, abbiamo annoiato i nostri ascoltatori e lettori raccontando sempre la storia scontata. La Merkel concava con Vesta, ruba i temi agli altri, ma che noia, i socialdemocratici speravamo, invece abbiamo perso, ci siamo persi la frattura storica che si vedeva arrivare nel voto nazionale, perché Alternative for Deutschland ha sorpassato il 5% in tutte e 13 le elezioni dei Länder che si sono tenute finora prima delle elezioni politiche. Adesso ha avuto una grande affermazione. La mia opinione che non conta, non ha lo stesso valore di come quando negli anni alle nostre spalle arrivava al 10% quasi di Link, cioè a sinistra dell'SPD. Perché quello era un voto, per così dire, fisiologico di estrema sinistra contro una SPD molto riformatrice, molto mercatista, un po' caudataria, troppo caudataria dei democristiani. Questo è un voto che è una frattura storica per la Germania, perché per la prima volta e con questa forza un partito che non nasconde di pronunciare a voce alta l'indicibile sugli stranieri e sul passato della Germania, sul pangermanesimo, sulla superiorità della cultura e non solo della cultura tedesca, rompe il grande compromesso politico che era la base della Repubblica Federale Tedesca, cioè che un partito così non sarebbe nato. Questo per me, che non sottovaluto l'importanza del pangermanesimo nella storia dei disastri dell'Ottocento e Novecento, è un enorme punto interrogativo. Noi non sappiamo come la politica tedesca reagirà, ma di sicuro la Germania ieri ha scelto di fare un passo verso quello che abbiamo visto e trascurato nei paesi dell'est Europa, in Polonia, in Ungheria, in Slovacchia, in Cechia. In questi anni forze nazionaliste, autarchiche, antiglobaliste, xenofobe, perché io le chiamo con i loro aggettivi, non mi fa paura, anche se molti che ci ascoltano diranno che siamo serbi del regime, ho capito. Se pensate che la risposta giusta, cari ascoltatori, sia opporre nazionalismo a nazionalismo, bene, ripetiamo la storia del Novecento. Io penso che non sia questa la storia giusta, quindi mi interroga profondamente come europeo e come italiano. La politica italiana, che si aspettava una Germania più pronta a mutualizzare i debiti, mi viene il sorriso, non ci sarà, e invece è una grande battaglia culturale prima che politica quella che noi dobbiamo compiere, se crediamo che i diritti, libertà, eccetera, eccetera, non ci candino a ripetere. Ho finito una storia che nell'Ottocento e Novecento in Europa la via del nazionalismo xenofobo l'ha già percorsa con tragedie. Allora, 800 24 00 24, c'è molto di cui discutere oggi e ci sono diversi commenti di qualcuno che ti dice meno male che il nazionalismo cresce con la crisi e con la povertà. Immaginavo. Ditelo alla Baviera, cioè quello dei ricchi, ma noi ci fermiamo per la pubblicità e torniamo. 24 mattino. Allora, arrivano tante telefonate e tanti messaggi su Germania e su taxi, era prevedibile. C'è qui con me, siamo insieme a Oscar Giannino, Nello Musumeci, buongiorno, è l'ultimo dei candidati importanti della partita più importante della politica di questo fine stagione, che deciderà molto in Italia. Buongiorno Musumeci. Buongiorno, buongiorno a voi e a chi ci ascolta, buongiorno. Senta, ma tentazioni autonomiste, lei, separatiste, qua si discute dopo Barcellona delle nazioni che finiscono per lasciare spazio, come dice Oscar, alle macro regioni. Ma se lo sogna la Catalogna di avere l'autonomia speciale della Sicilia, non ce l'ha? No, no, io non credo che il tema sia proponibile in Sicilia. C'è un dibattito che è essenzialmente un dibattito culturale che dura ormai da 70 anni. Noi lamentiamo la mancata applicazione dello statuto autonomistico, già basterebbe quello per dare alla Sicilia ciò che le è stato negato, ecco, tolto in questi lunghi anni da un esasperato centralismo romano. Musumeci, senta, c'è un comune romano, amico, addirittura. C'è un comune amico, Musumeci, Pietrangelo Buttafuoco, con cui condivido tra tante cose. Che lo vuole cose. Abolire. Ecco, perché dice... era un nobilissimo ideale, è stato nei decenni diventato uno scudo di malaffare e sprechi. I politici seri in Sicilia dicano, in nome del buon governo da assicurare e costruire ex novo nella nostra regione, rinunciamo piuttosto che usarlo come scudo. Sbaglia Pietrangelo Buttafuoco? No, no, Pietrangelo Buttafuoco incarna uno dei due sentimenti. Da un lato egli rappresenta la politica seria che dice aboliamo lo statuto visto che è stata la foglia di fico. Dall'altro c'è una scuola di pensiero che dice applichiamo, pretendiamo la piena applicazione dello statuto senza chiedere elemosine, perché almeno 3-4 articoli importanti dello statuto sono stati negati in questi 70 anni. Dai governi romani, di tutte le formule, di tutti gli orientamenti, ma è chiaro che di fronte a questo fallimento dell'autonomia dobbiamo ripensare un nuovo progetto costituzionale. Io sono convintissimo che l'autonomia sia servita più ai privilegi che alle opportunità per cui venne concessa. La volevo un po' più nazionalista, Musumeci, lei che viene dalla destra appunto, storica, però aspetti appunto. Un attimo, siccome tre grandi sondaggi la danno in testa in Sicilia, e questa è una cosa che fa, inizia a toccarsi, è un po' scaramantico, a toccare corni e amuleti? Io non sono superstizioso e devo dire che ai sondaggi mi accosto sempre con un certo disincanto, e quando sono favorevoli e quando sono contrari. Io i sondaggi li faccio ogni giorno, ho la percezione, stando in mezzo alla gente, e quindi ho un dato che mi pare più attendibile rispetto a quello meritevole di rispetto degli istituti demoscopici. Però voglio anche dirle che ancora la strada è lunga, ci sono 40 giorni abbondanti, e tutto può accadere in questa terra di Sicilia che, come sapete, è l'esagerazione dell'Italia. La Sicilia nel bene e nel male è tutto quello che c'è nella penisola. Quello che a nord è brutto, in Sicilia è bruttissimo. Quello che al nord è bello, in Sicilia è bellissimo. Ah, una bella definizione. La Sicilia come l'esagerazione dell'Italia. Allora, grazie a Nello Musumeci, torneremo a sentirlo perché questa campagna si fa sempre più interessante. Oscar, ci sono ascoltatori, eh? Sentiamo subito cosa hanno da dire. Partiamo dal primo, che è ovviamente Stefano da Roma. Pronto? Aia, che ronzio. Spegni la radio, abbassa il volume. Tutto abbassato, tutto sto con Però così non si sente. E l'auricolare allora, Stefano? È Bluetooth, no, più la voce, Bluetooth. No, però così gli ascoltatori non sentono, bisogna richiamarlo. Allora, mentre sistemi, Gabriele, fammi dire una cosa, perché noi abbiamo, i giornalisti politici hanno riempito pagine interne fine settimana sulla piattaforma Rousseau, che era saltata, hanno votato in 37 minuti, tutto bene, benissimo. Ma perché non diciamo niente sul fatto che la piattaforma informatica che dopo la terza proroga della comunicazione dei dati per lo spesometro fiscale, dopo la terza dovremmo fare la quarta, perché è saltata per l'ennesima volta e consente piena trasparenza all'accesso ai dati degli altri. Ma vi rendete conto, cari ascoltatori, altro che lo scandalo della piattaforma Rousseau, quella è la piattaforma di un'associazione non riconosciuta, la piattaforma Colabrodo, si poteva vedere qualunque dato, questo qualunque è lo cosa, Stato che mi fa le prediche, capisci? E poi dopo un anno che l'hanno messa, il nuovo spesometro, non sono in grado di garantire A che funzioni, B lo fanno in questo modo, una violazione di massa di diritti, di tutela di dati, cioè, ma non si vergogna lo Stato? Ma qualcuno, il capo della SOGE, il nuovo capo dell'Agenzia delle Entrate, Ruffini, ma non sente il bisogno di andare in televisione e dire mi prostro in ginocchio, io che vi faccio le prediche, non dovrei avere la faccia di farvele, vi chiedo umilmente scusa, quando pensa, capiterà alla giapponese? Fossi entrato ieri avrei potuto finalmente scoprire quanto guadagnavi, e saresti sbiancato perché tu guadagni molto più di me. Stefano, come sempre, niente, questi qua che sono invidiosi sociali, sono sempre io sono invidioso sociale solo di te, vai, in media individuale. Stefano, buongiorno. Luca, ciao, hai sistemato bene, bravo. Okay. Allora, io volevo dire, ho sentito il discorso e come al solito c'è la solita diottria, cose, guerre. Allora, al signor Giannino, non so che è, diciamo, pro Uber e pro soprattutto libero mercato, libera concorrenza, non so se il signor Giannino sa che Uber chiama INCC a Roma come in tutte le altre città. Beh sì, questo allora, lo sanno tutti. Noi taxi siamo a Roma 8.000 quasi, e dico una cosa qui, lancio un sasso pesante: di questi quasi 8.000 taxi mancano al totale circa 300 licenze dell'ultimo concorso di Veltroni, che non si sa, sono state ritirate, requisite, non si sa che fine hanno fatto, quindi su quel famoso bando di 2.000 licenze mancano al numero attuale circa, allora? 300 licenze. Beh, sono 300 licenze in meno che dovrebbero lavorare rispetto al bando che fu fatto, e che ci sono sostituti alla guida che pagano un affitto con una gestione d'azienda per guidare i taxi altrui. Questa è una parentesi, dove sono finite queste 300 licenze? Vabbè, ma questo riguarda solo Roma, sul tema nazionale, sì, c'è una domanda. No, però era una premessa perché è importante, mancano 300 licenze che non si sa che fine hanno fatto. Allora, Uber chiama INCC, INCC che a Roma sono 7.000, di cui ufficiali licenze di Roma solo 1.000, le altre 6.000 licenze sono di tutti i paesi d'Italia. E allora, d'Italia. Stringiamo. Queste licenze naturalmente non pagano le tasse con gli stessi valori, diciamo, di Roma, pagano di meno. Questi NCC, quando si parla di libera concorrenza, come dicevi giustamente tu, allora noi taxi abbiamo dei paletti da rispettare, turni, perché orari. È un servizio diverso il vostro e non però se io voglio lavorare un'ora di più quando c'è lo sciopero dei mezzi per aiutare una vecchietta che sta a piedi, a me volendo mi fanno una multa. E certo, perché ripeto, allora, un conto è un servizio amministrato che non varia ai momenti di picco, quindi con licenze limitate, e un altro conto è un libero servizio di mercato che incrocia domanda e offerta a regola diversa. Tutto qua. Poi, l'Italia non vuole farlo? Vogliamo escludersi da ciò che oggi è offerto in 657 città al mondo? Se l'Italia, come sempre, preferisce non guardare che c'è una domanda e un'offerta aggiuntiva a condizioni diverse, che va comunque regolamentata, io non dico il Far West, perché non è che sono insensibili al fatto che se i guidatori di Uber a Londra si mettono a fare violenze sessuali di seguito, c'è qualcosa che non funziona moltissimo, e capisco l'autorità dei trasporti che dice, ragazzi, ci dite quali impegni oppure vi ritiro la licenza. Questo sì, ma continuare, scusate, è da anni, cari amici in ascolto, che continuiamo questo discorso. Io vi do ragione solo per il fatto che la politica con la coda tra le gambe non sa scegliere, ma per il resto continuare a rappresentare la lotta di coloro che si vedono sottratti un lavoro quando la condizione della domanda e l'offerta è diversa, è legittimo che voi lo facciate, battetevi per i vostri diritti, mi fa schifo la politica che vi illude e non decide, però per il resto nel mondo il mio compito è dire che il mondo ha un altro tipo di offerte che non vi ruba il mestiere, aggiungere raggiunge, cioè, ripeto, il 40% dei londinesi senza Uber non riesce a viaggiare con i taxi e i mezzi di superficie pubblici. Ecco, ed è il motivo del successo di Uber a Londra, come in altre 19 città britanniche. Se vogliamo vedere il mondo come va, se voi pensate che sia tutto il complotto oscuro di una multinazionale per non pagare le tasse e far lavorare delinquenti, no, date una rappresentazione paradossale. Basterebbe che tutti pagassero le tasse allo stesso modo se svolgono lo stesso servizio. Se il servizio è diverso, l'organizzazione del servizio, stesse tasse. No, questa è menzogna. Ma io voglio dire, non si può fare l'informazione con la menzogna. No, è una menzogna. Eh sì, perché allora, se dobbiamo dire la verità, molti di quelli che lavorano con le licenze in noleggio nelle città non potrebbero lavorare con le licenze in noleggio. Sono d'accordo, perché la legge degli anni 90 e degli anni 90 a Crotone, e la legge che ti dice che devi prendere il servizio col telefono di Bachelite, cioè, il telefono di Bachelite, bello, ma dai, su, ma è il passato remoto. Allora, molti messaggi, ricordiamo, qualcuno grida complotto, ma non prendete i messaggi, arrivano all'800 24 00 24, no, quello solo telefonate, il messaggio arriva a 349 238 6666. Un'altra chiamata e stiamo parlando con Gabriele da Bologna. Gabriele, buongiorno. Buongiorno. Allora, volevo intervenire su Uber. Sono un buon testimone del servizio taxi a Roma in particolare, che è caratterizzato molto spesso da code e da attese eccessive. In questo caso vedrei una soluzione nell'uso di piattaforme tecnologiche che uniscano il servizio taxi e Uber. E queste piattaforme tecnologiche, nel momento in cui dovessero registrare tempi di attesa eccessivi per il servizio tradizionale, potrebbero dare il via all'utilizzo del servizio Uber, quindi in una logica di integrazione e non in una logica di antagonismo col servizio taxi. Ma come si fa a fare l'integrazione tra prezzi amministrati e licenze ferme di numero fisse e un servizio invece flessibile costruito per i momenti di picchi a tariffa mobile? Sono due offerte diverse. Ma perché vogliamo in Italia pensare sempre di dover fare Gianni Letta? Cioè, Gianni Letta va bene per la politica, cioè, ripeto, per il cenozoico. Il mercato evolve ed evolve liberamente. L'Italia può dire non lo voglio, perché per me Uber, in tutte le sue diverse forme di offerta, Uber non è solo una, è una roba che mi attenta al mio senso, che deve essere solo l'offerta pianificata, licenze, numero fisso e tariffe amministrate. Ma non è che possiamo mettere insieme la modalità della licenza fissa con quella invece della tariffa mobile. Ecco, tutto qui. Allora, NCC, acronimo di cosa? Non lo spiegate, invece lo spieghiamo. Noleggio conducente. Io vorrei che la liberalizzazione delle licenze è un servizio regolamentato, bastano il mercato nero delle licenze, e questa è un'altra cosa giusta. Giusto, perché sulle licenze in Italia, caro Oscar, non si capisce come si possa averle. Si comprano, si girano, si rivendono. Gli amici, degli amici. E allora, però, tu per chi voti, in cambio che mi dai? No, ma questo è un altro problema. Se uno poi ha speso, perché la licenza assume un valore di mercato, e ha speso 100-200 mila euro e deve pagare un mutuo per 10 anni, ecco, poi io lo devo tutelare, non certo, posso essere lo Stato che non vede con le mani sugli occhi e dice ma io non lo sapevo che tu hai comprato la licenza. Quella chi è ipocrisia, corretto. Tanto è vero che in un paese civile, se si decidesse di fare un pezzo di quello che ha in mente quelli come me, cioè di andare alla liberalizzazione nella distinzione di servizi diversi, è ovvio che a quel punto tu devi assumere il valore di carico patrimoniale per chi ha comprato una licenza sul mercato secondario, che lo Stato ha fatto finta di non vedere, perché solo in pochissime città, tipo certo, Firenze, non c'è, mentre nelle altre si arriva a 200.000 euro, follie totali, e devi dire, calcoliamo da quanti anni ce l'hai e io ti riconosco l'avviamento ancora non coperto, perché non ti posso infliggere un danno patrimoniale di queste proporzioni, caro tassista, certo, perché tu hai... ha comprato, impegnato un orizzonte di vita e di reddito disponibile, magari, cioè, perché avevi perso il lavoro prima, hai impegnato tutta la tua famiglia, perché le regole erano quelle. Questo è sacrosanto, questa è equità. Io non sono mica uno che è matto in questo. Allora siamo, perché stai pagando un mutuo, e spesso sì, se d'accordo, quella licenza perde valore, sono, tu continui a pagare un mutuo, non si può dire me ne frego. Anche la beffa, no, se si cambiano le regole non si può dire nella transizione me ne frego. Questo è poco ma è sicuro. Allora, volevo, se Federico, un altro ascoltatore, non vedo da dove, ma è sulla Germania, così torniamo sul tema importante. Sì, Federico, vai. Sulla Germania volevo dire che AfD, come anche tante forze definite populiste o xenofobe, in realtà raccolgono la rabbia di quelli che definiscono i non garantiti. Secondo me, soprattutto nei paesi dell'est, rappresentano molto più, sono rappresentativi molto di più nelle fasce giovani di questo senso di non garantismo, di questi lavori a 3 euro, di questo sfruttamento. Guarda i dati dei giornali tedeschi, che naturalmente i giornali italiani pubblicheranno da domani e dopodomani in avanti. Primo, il voto, la stratigrafia del voto Alternative für Deutschland, non solo nei voti dell'Ander, ma anche in questo politico, non è solo il voto di Linke nell'est, ma è diffuso in tutta la Germania, e vado a vedere più del 70% degli elettori che dichiarano nei sondaggi di votare Alternative für Deutschland si dichiarano soddisfatti del reddito, cioè è un partito di protesta nazionale borghese, medio borghese, alto borghese, non solo di quelli esclusi dal dividendo della crescita economica. Due, quindi tantomeno, voglio dire, di coloro che tradizionalmente per esempio votano Linke, quelli dei mini jobs, come diceva lei. Beh, Linke non è un partitino, perché a sua volta si becca il 9%. Però la novità di Alternative für Deutschland è proprio la destra nazionalista borghese, che è un pezzo di una storia pesante. E anche nostalgica, Oscar. Infatti ho letto due articoli sul Messaggero, per chi non ha sentito la prima parte della segna, e sul Corriere della Sera, ma c'è un po' dappertutto, dove il vero nodo, la vera novità è che mai era entrato, giusto o sbagliato, nel Parlamento tedesco qualcuno che dicesse la frase tabù: il memoriale sull'Olocausto non va fatto. Qualcuno che dicesse: i nostri soldati eroici della Seconda Guerra Mondiale, che ovviamente sono quelli che hanno combattuto per Hitler. Sono due tabù. È una definizione tecnica quella che ha dato Oscar, non è una definizione dispregiativa, sì, diciamo, è proprio descrizione. Rosanna, da dove? Buongiorno Rosanna. Rosanna, sei collegata? Buongiorno. Sì, da dove? Da Cinisello. Oh, Cinisello, balza. Senta, io sento un po' male. Comunque volevo dire al signor Oscar, no? Che mia sorella ha venduto un appartamento per poter comprare la licenza al figlio per poter lavorare. È un laureato. Sì. Allora, non ha presente queste cose, signor Oscar? Ma come non ho presente? Perché? Ne abbiamo parlato prima, signora. Ripeto, un istante non diciamo fa, lo abbiamo detto. Cioè, chi si è impegnato in maniera molto rilevante, chiunque segua il settore sa che è così, signora, come faccio a non saperlo? La mia opinione, da sempre, lo ripeto da anni, il giorno in cui si dovesse fare una regola in cui si liberalizzano un'offerta di condizioni diverse, libera come quella rispetto al prezzo amministrato e numero fisso di licenze, quel giorno bisogna garantire il valore residuo da ammortizzare della licenza a seconda del numero di anni fa che te la sei comprata e riconoscerlo ai tassisti. Ci mancherebbe altro, nessun esproprio. Si pensi se io posso fare un esproprio di Stato, io che protesto contro lo Stato espropriatore. Quindi lei mi ha ragione sento nel dirlo. Di difendere il gatto. Signora. Però Rosanna, concluda, perché lei voleva testimoniare anche qualcosa. Mi interessa questa storia del giovane laureato, in che cosa, in quale materia, a cui la madre, guardate, è una fotografia italiana, ci deve quasi preoccupare, compra la licenza vendendo un appartamento. Prego Rosanna. Le dirò una cosa, che io non salirei mai a una macchina blu che non è un tassista qualificato. Abbiamo visto che cosa è successo l'altro giorno. Grazie, buongiorno. Rosanna ha una passione, anche altri invece vogliono lo smartphone scegliere, quindi non è questo. Io rispetto assolutamente la scelta di ciascuno per i diversi segmenti, però mi colpisce che in Italia la politica, e guarda che il vero assente, la vera cosa che non riusciamo a spiegarci, comunque la pensiamo, è quella, cioè la politica che promette e svanisce. Ma secondo te perché, Luca? Perché fatica a scegliere, non sa cosa scegliere, è in un conflitto di interessi in cui se sceglie Uber perde i tassisti, il consenso dei tassisti, se invece privilegia i tassisti facendo applicare la legge che c'è ora, ma allora così invece non decide, non scontenta decide, tutti, ma, e tutti, tutti quanti, scusa. Ma non riguarda soltanto, esatto, i tassisti, bravo, riguarda gli edicolanti, poi dice, riguarda un sacco di licenze, perché c'è il voto di protesta in Italia e dell'antipolitica, ma è la politica che non sa scegliere, l'antipolitica numero uno, secondo me. Sono d'accordo con te. Dunque, leggiamo un po' di messaggi. Parlate del referendum in Veneto, non dice niente nessuno. Ne parleremo, no, una cosa alla volta naturalmente, quando ci avvicineremo, no, a me manca poco, lo faremo senza dubbio. Sapete che non è qualcosa di paragonabile alla Catalogna, sono referendum secondo l'articolo 116 della Costituzione, consultivi, l'apertura di un tavolo, cioè per una materia importante di argomenti, perché quelli designati dalla Costituzione come argomenti sui quali Costituzione e governo e regioni e governo possono addivenire a un accordo di autonomia rafforzata sono molto importanti. Quindi dobbiamo chiamarci un altro ospite, però, perché bisogna saperne di più, nel senso che l'obiezione più forte è che questo referendum non muove anzi molti dicono è inutile ed è uno spreco di soldi. Il referendum è inutile, è un pamphlet scritto. Senti, ma Renzi, che dopo 3 anni che ha governato, dice le tasse sono insopportabili, ma quella è l'antipolitica. Hai governato, Renzi, per 3 anni, non puoi dirlo tu dopo 3 anni che sono insopportabili. Ma roba da matti, fai uno dei tuoi urletti. Rido perché ha perso l'utilità. Ha perso l'utilità, mi dispiace. Magari! Bene.